entro a mezzogiorno, ci va a casa, praticami della pizza. Cosa hai perso? Un cane, che ci sono da vecchio. Pomponio. Là, giù che sono 17:04, già tra mezzogiorno, ho preso. A me la seguita, picamentelo. Che ne lo dica a vita? La domanda che non l'ho visto più su in Cassari. Sulle dici, dai. Pro salame, certo. Ehi, aspetta, aspetta, per usarci una tarifa in quella che devo uscire, che con una maniera da fare, corre una manca a destra. Ciao, per il mio essere ascoltato. Sto tenendo sempre conto di quella posto di lavoro. Parlato l'altro giorno con una persona. Cercate di più là, comunque, dai, e sono abbastanza impegnato. Ciao, una carina. Buon proseguimento, fammi sapere anche quando vai in super della serie. Ciao. Ciao, Gianni. Ciao, ciao, anima longa. Basilio, ci sentiamo, ciao a tutti. Saverius. Qual è la frequenza 105? 94-80. Guarda se questa. Thank you. a fare voci. Anche accudite in tanti. Le donne mi attirano, e come? mamma mia. Mi fanno rubare, mio brico. Non ci sono alcune che sono buttate su noi, stanno quelli sporchi. Dice che se mettevi i calzini dritti stavano in piedi, da quanto erano sporchi, non si lavava mai. Una notte il capitano l'ho detto, prima di andare a letto se te le vai a lavarti, se non scendi nel camerone. Mi hanno messo le scarpe fuori, le catene le hanno buttate alla finestra e a lui l'hanno mandato nel bagno e c'erano di quelle porte tipo saluno. Hanno sentito l'acqua, cioè dicevi mi sta lavando, io che andiamo a vedere, piano piano sono andati, gli ho dato un calcio e c'era lui a fianco alla doccia e la doccia scendendo a vuoto. Non ci credo, il massimo del bingo proprio. Buonasera a tutti. Antonietta. Occhio al pericoma. Occhio agli spaccatrondi. Gracias. dal dottore. Dal dottore, stava davanti a me dal dottore. Sì, ma questo qua ancora non l'ha visto. Ha altro lavoro, capito? Ma detto che se ce la fa me lo mette in mezzo. Perché se quella cosa lì, ha detto, già fa in fretta, non è che sia niente di particolare. Va? E io ci vuole molto, così di poco lavoro, se mette il lavoro, ce la posso. Chi è che chiama Luciano? Avanti. Sul 21, no, siamo sul 10 e sul 21, sono due ruote. Prego, ma il canale di tutti, non è della scuderia. Il canale, noi paghiamo la concessione per 40 canali, per cui se ce lo stai chiedendo per cortesia ci spostiamo, ma non è che sia della scuderia, dove c'è scritto. No, aspetta, chi sta messo in partenza? Ci devi fare una chiamata a falla, non ci sono problemi. Chiama, che devi chiamare, però questo è un canale che utilizziamo e non ci sono problemi, noi rimaniamo qua, dai. Chi è? Chi è? Questo qui non è giusto, però se si può fare una cortesia si fa, dai. capo, ma se ne parla un collega, se si sentono che sono vicini, non vedo quel problema, capito? Ma qua c'è sempre una rotta, stiamo comprando per la sera, non è che... Poi vabbè, per me è problema, mi dice ho 40 di canali, mi dice pure di più, però non so se sono d'accordo su tutti, questo canale viene utilizzato ogni giorno. Ci conferma. Ciao Alessandro, per sentito. Ciao Gianni. Ciao. Saluto a tutti, dai. Allora. Ma io devo chiudere, dai, ci sentiamo dopo più tardi, Buon tabacco, Antonio! Ciao Antonio! Grappa, è troppo, mi preparo a lavorare.